Vabbè, riguardo a quello che si diceva prima sul rapporto tra crisi e diritti, io non credo che sia una relazione così univoca, cioè che quando c'è un periodo di crisi i diritti si restringono automaticamente, anzi penso che una trappola spesso usata dai governi di sinistra sia quella del bastone della carota. E penso ad esempio al Portogallo, cioè che è uno Stato che da un lato approva delle misure che sono brutali dal punto di vista sociale, dall'altro, ad esempio, cosa fa in un paese che è di un cattolico che in Italia nemmeno ci immaginiamo, approva i matrimoni gay in un attimo. Cioè nel senso, perché come dire, sa già che va a perdere un bacino di voti pazzesco, allora per drenarlo concede quello che tutto sommato non è poi una cosa così sconvolgente. Cioè nel senso, quindi secondo me il rapporto non è così netto e causale. Cioè, secondo me ci sono sempre, e per questo mi piace molto la cosa delle risposte, cioè come può essere l'Argentina una risposta positiva. Cioè, secondo me ci sono molte possibilità di contrattazione locali alla crisi e nuovi modi di immaginarsi la realtà. E poi sicuramente sono d'accordo sul fatto che il fronte da affrontare, cioè il vero nemico è l'Unione Europea, cioè nel senso su quello non ci piove, cioè nel senso l'Unione Europea è il vero problema, perché i governi sono contentissimi che tanto ti dicono c'è il patto di stabilità, noi che cosa possiamo fare, perché però l'Unione Europea ti dimostra la miopia della sinistra italiana, perché è la sinistra che per anni ci ha detto che l'Unione Europea ci avrebbe salvato da non si sa cosa, e noi adesso abbiamo la realtà che siamo governati dall'istituzione meno democratica che è veramente si riesca a ricordare, perché tu hai che è governata da nessuno che è stato eletto, cioè nel senso tu sei comandato, cioè la tua vita è decisa da persone che non sono state elette da nessuno, cioè dai cosiddetti tecnici. Poi potremmo interrogarci su che cos'è un tecnico, su come si forma un tecnico e come si riconosce. Altre due cose riguardo al nuovo welfare. Secondo me, cioè quello un po' che dobbiamo dirci è che il nuovo welfare, almeno per come la penso io, non è necessariamente il reddito di cittadinanza, cioè nel senso nuovo welfare io lo intendo innanzitutto come non soltanto difesa dei servizi che già abbiamo pubblici e non statali, come ha detto benissimo Filippo, ma un'estensione di diritti, perché quello che noi abbiamo oggi in Italia è che ci sono delle sacche tremende che non hanno nessun tipo di diritto. Cioè, in Italia un diritto sacrosanto come l'asilo politico, cioè questi non hanno riconosciuto nulla, cioè nulla di niente di niente. Cioè nel senso, quindi si dice tu scappi da torture e tutto quanto, e beh, ti do la cittadinanza ma non ti do niente. Io non ti do, non ti trovo una casa, non ti trovo un lavoro, non ti faccio imparare un corso di lingua, non ti faccio niente. Io ti accolgo, sì, cioè quindi ti accolgo a fare cosa? A fare lo schiavo. Cioè nel senso, e quindi secondo me è necessaria un'estensione di diritti, è necessario ripensare in qualche modo il welfare, così come ci dimostrano che un welfare più largo è un aiuto fondamentale anche a certe categorie di soggetti. Ad esempio penso alle trans che si prostituiscono, perché per una trans che si prostituisce e che vorrebbe smettere di prostituirsi, se avesse un welfare, cioè se avesse una possibilità reale di scelta, forse evidentemente smetterebbe di farlo, cioè nel senso molti ricerche sulla prostituzione avrebbe un'opzione, cioè molti ricerche sulla prostituzione ti dicono che le donne sono tra virgolette più libere, poi è ovvio che il concetto di libertà è molto relativo, però sicuramente nei paesi in cui lo Stato è più presente, i trasferimenti dello Stato alle persone, all'individuo sono più forti, le donne hanno più possibilità di scelta, perché comunque hanno una base materiale di partenza che le mette in una condizione più forte di scelta rispetto a determinate cose che le si presentano. E l'ultima cosa rispetto alla famiglia, cioè io per quanto mi riguarda non c'ho assolutamente niente contro la famiglia, perché possibilmente io stesso penso magari un domani di avere una famiglia, però non credo che io in quanto io debba avere dei diritti solo quando avrò un compagno. Cioè io voglio avere dei diritti in quanto io, cioè nel senso poi se quando avrò un compagno benissimo, però automaticamente secondo me vengono dei diritti nel momento in cui stiamo insieme. Poi un discorso a parte, sicuramente il minore, cioè il momento è ovvio che nel momento in cui c'è un figlio di mezzo il minore ha dei diritti particolari che vanno tutelati e regolati in altra maniera. Per quanto riguarda il concetto stesso di famiglia, secondo me io non credo che la società si basi sulla famiglia, ad esempio. Cioè, penso che la famiglia possa essere una risorsa per le persone, la famiglia inteso appunto, anche come dicevi tu, anche se uomini educati, cioè nel senso, perché io non voglio essere io, cioè per me la famiglia possono essere anche i miei amici, cioè nel senso, no? E noi decidiamo di costituire una famiglia riconosciuta dalla società, cioè nel senso, secondo me è quello che il concetto di famiglia è un concetto estremamente variabile che andrebbe molto slegato proprio dall'idea di coppia, secondo me, sono d'accordissimo. Ok, bella. Senti.